Radio 24 Reportage. In viaggio lungo il Po, aspettando la pioggia, di Enrico Pagliarini. Ma guardi, preoccupazioni ci sono sempre, però siccome un po' d'anni li ho, le stagioni hanno sempre avuto i loro cicli, più o meno lunghi, ha fatto i periodi asciutti e caldi, periodo in cui poi è piovuto e magari è piovuto anche troppo. Usciamo da un autunno dove ha continuato a piovere per 2 mesi e non ci ha lasciato fare le semini autunnali che poi abbiamo dovuto rimandare a gennaio. Bisogna sempre essere pronti ad affrontare le emergenze, però insomma non lasciamoci travolgere troppo dagli eventi, ecco, perché i cicli e i ricicli ci sono sempre stati. Giovanni Lambertini è titolare di un'azienda che produce pomodori nel Piacentino e non farebbe l'imprenditore se non fosse ottimista sul futuro. Lo incontreremo di nuovo tra poco. Certo è che il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti. Questo inverno è meno freddo del solito. Da inizio anno non piove, sugli Appennini non c'è neve e le preoccupazioni si concentrano soprattutto sul bacino del grande fiume Po, dalle cui acque dipende circa un terzo della produzione agricola nazionale e oltre la metà degli allevamenti di bestiame. Meuccio Berselli è il segretario generale dell'autorità di bacino del Po. È una dimensione che ci preoccupa parecchio, perché in questo momento non sta piovendo da mesi e il livello del fiume, che ha una portata buona, diminuisce circa il 10% della sua portata ogni settimana, senza però essere attivato il momento del prelievo per gli scopi soprattutto di irrigazione agricola. Noi sappiamo che nella sezione terminale del fiume a Ponte Lagoscuro, in provincia di Ferrara, devono passare 450 metri cubi al secondo, altrimenti c'è l'intrusione del cuneo salino e quindi un danno per l'habitat del delta molto importante, perché anche i pozzi e quindi l'attivazione di irrigazione con i pozzi viene inibita per il fatto che l'acqua sarà salata o salmastra. Quindi il problema ce l'abbiamo fin d'ora e cerchiamo proprio il 6 marzo di organizzare, di riunire nell'osservatorio tutti i portatori di interesse per evitare i conflitti tra i territori di monte e i territori di valle, perché ci avviciniamo a un periodo in cui l'acqua scarseggia. L'osservatorio siccità della prossima settimana cercherà di mettere d'accordo soggetti che hanno interessi contrastanti, come chi produce energia idroelettrica nei momenti di maggiore richiesta e di notte ripompa l'acqua in bacino, e chi quell'acqua la deve usare per irrigare i campi. Ma a soffrire un po' tutta Italia, come spiega Francesco Vincenzi, presidente dell'AMBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi che gestiscono le acque irrigue. Siamo in una fase di forte preoccupazione in alcune parti del territorio, addirittura in emergenza. La situazione è a macchia di leopardo. Se iniziamo dal sud, abbiamo la Basilicata e la Puglia che lamentano un calo all'interno dei propri bacini di oltre il 50% rispetto agli anni passati. Non andiamo sicuramente meglio in Calabria, dove addirittura stiamo chiedendo lo stato di crisi, perché appunto non abbiamo quasi più disponibilità, in particolare per quelle culture che devono finire il loro ciclo produttivo con quelle culture invernali. Per quanto riguarda, man mano che saliamo a macchia di leopardo, abbiamo delle criticità in tutto il centro Italia e delle portate anomale, quindi molto basse, del grande fiume, quindi nella pianura padana. Questo preoccupa ancora di più se pensiamo che manca tutto il manto nevoso che anche negli anni passati magari avevamo a disposizione, quindi che andava a rimpinguare un pochino quella che era la situazione attuale. Inoltre, con una stagione che ha fatto fino a oggi, ha fatto registrare dei record rispetto alle temperature, che sono stati dei record degli ultimi anni importanti, quindi le culture stanno partendo, noi come mondo dei consorzi di bonifica ci siamo trovati davanti alla situazione di dover dare acqua in un periodo assolutamente anomalo, ovvero in questi giorni. Buona parte della pianura padana oggi è servita già dall'acqua di irrigazione, che sicuramente non è una normalità. Ecco. Per ora al nord possiamo affidarci ai grandi laghi. Quelli di Como e di Iseo sono riempiti solo al 20%, ma fortunatamente il Garda è al 94% e il Maggiore è quasi all'80% di riempimento. Il Lago Maggiore per noi è fondamentale, perché un centimetro di acqua in più nel Lago Maggiore significa 2,4 milioni di metri cubi di acqua. Abbiamo chiesto dall'anno scorso di portare a 35 centimetri in più del livello normale il livello del Lago Maggiore, quindi possiamo derivare circa 90 milioni di metri cubi in più. Questi sono molto utili, soprattutto in un periodo siccitoso come questo, ma non basta, perché se il periodo siccitoso viene prolungato o potrà essere prolungato, allora servono anche delle altre attività come gli invasi. E siamo agli invasi. Purtroppo non abbiamo grandi notizie da darvi. Attualmente non è in costruzione nessun grande invaso e siamo in ritardo. Ancora Vincenzi. Ad oggi devo dire che è partito un piano stralci. L'anno scorso è partito il primi 250 milioni di euro per mettere in sicurezza una serie di invasi che negli anni passati erano stati messi in discussione proprio dal punto di vista della sicurezza e dell'utilizzo, ma il vero piano invasi deve ancora partire. L'Emilia-Romagna è la regione che più di tutte al nord soffre, perché non ha né i grandi laghi e nemmeno i fiumi che copiosi scendono dalle Alpi. Sarà la prossima giunta a doversi occupare delle dighe, come conferma Marco Deserti, responsabile tutela qualità dell'acqua della regione Emilia-Romagna. Questa sarà la grande questione del nuovo piano di tutela delle acque che verrà avviato nel corso di quest'anno con l'avvio della nuova legislatura nel 2020 e dovrebbe essere messo a punto tra il 2020 e il 2021. La scelta di fare grandi invasi, che si rende sempre più auspicabile in presenza di scenari di cambiamento climatico che cambiano la distribuzione pluviometrica nel corso del tempo, quindi precipitazioni intense e concentrate in brevi periodi e lunghi periodi di siccità, ha comunque, diciamo, la realizzazione di grandi invasi ha comunque una serie di pro e contro, quindi va valutata molto attentamente caso per caso, e questo qui sarà, diciamo, la questione forse principale del nuovo piano di tutela, che dovrà fare delle scelte in questa direzione. Certo, sappiamo quanto è complicato costruire grandi opere in Italia e sappiamo che i tempi per costruire una diga possono estendersi fino a 10 se non 15 anni. Ma se alcune dighe sono necessarie, ci sono anche alcune alternative per conservare e risparmiare acqua. Ma laddove esistono delle alternative vanno messe in campo tutte quante. Ci possono essere appunto la realizzazione di invasi medio-piccoli, possono essere potenziate ulteriormente le altre azioni di riuso, di ricarica della falda sotterranea e quindi probabilmente dovremmo mettere in atto tutte queste misure simultaneamente. Probabilmente la costruzione di invasi e la tecnologia per usare solo ciò che è necessario per le piante daranno il contributo maggiore a limitare il problema della siccità nei prossimi anni. Alcuni agricoltori hanno già iniziato da tempo questo percorso, come spiega Giovanni Lambertini. Lo avevamo incontrato all'inizio del nostro percorso. Siamo passati dall'irrigazione prima a scorrimento negli anni, diversi decenni d'anni fa, poi dall'irrigazione ad aspersione all'irrigazione a goccia con le manichette dalle gocciolante. Ci permette di dare alla pianta la quantità d'acqua che necessita nelle varie fasi di sviluppo vegetativo. E questa quantità d'acqua che noi diamo viene controllata da un sistema di sonde che ci rilevano nel terreno l'umidità presente. Da noi qui a Piacenza siamo un po' al top, me lo lasci dire, per la produzione di pomodoro, e posso garantirle che sul pomodoro sono già almeno 15 anni che questa pratica è utilizzata e copre sicuramente quasi il 100% della superficie investita a pomodoro. E ha potuto espandersi la coltivazione del pomodoro anche grazie a queste tecniche, perché probabilmente con i sistemi irrigui che avevamo prima avremmo potuto investire superfici molto minori. Certo però che a fronte di aziende che da tempo usano la tecnologia ce ne sono tante altre che non lo fanno. Roberto Bandieri è un agronomo e lavora in Rural Set. Sì, dobbiamo imparare prevalentemente a non sprecare l'acqua in maniera intelligente, cioè con un uso intelligente. L'acqua si usa meglio sostanzialmente in tre macro ambiti. Uno è quello che va raccolta quando viene, quindi qui bisogna costruire delle strutture per raccoglierla l'acqua, quindi il tema degli invasi arcinoto, che però hanno un fatto di tempi e costi. E poi va usata meglio quando arriva sul campo, quindi sistemi irrigui più intelligenti, agricoltura 4.0, che oggi si parla di irrigazione di precisione, quindi ha tutti gli strumenti per farlo. È un tema prevalentemente di tipo culturale, che poi si riverbera anche sulle colture, ma parte dalla cultura, cioè una cultura agronomica che ci racconta come coltivare meglio. Le cosiddette cover crops, quelle coltivazioni che tengono coperto il terreno a lungo per evitare dilavamento, percolamento e tutti quegli altri fenomeni che ci rubano acqua. E questo si fa ancora poco. Si fa molto poco, tutti i piani di sviluppo dell'agricoltura digitale di precisione 4.0 nelle mille accezioni che stiamo cercando di dare fa molta fatica a trovare riconoscimento per due motivi fondamentali. Il primo è quello che il mondo della tecnologia è molto poco capace di raccontare al mondo degli agricoltori quello che gli offre come soluzioni. La seconda è un tema di sensibilità culturale, cioè nel senso che molto spesso l'agricoltore ritiene di non avere, tra virgolette, bisogno di questi sistemi, ma è molto semplice perché non li conosce approfonditamente. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.